La mia storia di Emmeline Pankhurst. Libro 1. La nascita di una militante. Capitolo 1. Fortunati sono quegli uomini e quelle donne che nascono in un'epoca in cui è in corso una grande battaglia per la libertà umana. Ed è una fortuna in più avere dei genitori che prendono parte ai grandi movimenti del loro tempo in prima persona. Io sono felice e riconoscente che questo sia stato il mio caso. Uno dei miei primi ricordi è una grande vendita di beneficenza che si teneva nella mia città natale, Manchester, il cui obiettivo era raccogliere denaro per alleviare la povertà degli schiavi negri da poco emancipati negli Stati Uniti. Mia madre ebbe un ruolo molto attivo in questa missione e a me, bambinetta, venne affidata una busta sorpresa con la quale avrei aiutato a raccogliere le offerte. Piccola com'ero, non potevo avere più di 5 anni, conoscevo perfettamente il significato delle parole schiavitù ed emancipazione. Fin dall'infanzia ero stata abituata ad ascoltare discussioni pro o contro la schiavitù e la guerra civile americana. Sebbene il governo inglese alla fine avesse deciso di non riconoscere la Confederazione, l'opinione pubblica in Inghilterra era duramente divisa su entrambe le questioni: schiavitù e secessione. In generale, le classi dei possidenti erano pro schiavitù, ma c'erano numerose eccezioni alla regola. Molti di quelli che formavano il circolo di amici della nostra famiglia si opponevano alla schiavitù e mio padre, Robert Golden, fu sempre un abolizionista davvero ardente. Lui era abbastanza in vista nel movimento da venire incluso nella commissione che incontrò e accolse Harry Ward Beecher quando arrivò in Inghilterra per un tour di conferenze. Il romanzo della signora Harriet Beecher Stowe, La capanna dello zio Tom, era il libro preferito da mia madre, che lo adorava al punto da usarlo di continuo come fonte di storie della buonanotte per le nostre orecchie rapite. Queste storie, narrate almeno 50 anni fa, oggi sono così fresche nella mia mente come i dettagliati eventi del giornale del mattino. A dire il vero, sono ben più vivide perché hanno lasciato una più profonda impressione sulla mia coscienza. Ricordo ancora distintamente l'eccitazione che sentivo ogni volta che mia madre raccontava la storia della fuga per la libertà di Eliza sui blocchi di ghiaccio del fiume Ohio. Lo straziante inseguimento e il salvataggio finale per mano del risoluto vecchio quacchero. Un'altra storia particolarmente emozionante era quella della fuga di un giovane negro dalla piantagione del suo crudele padrone. Il ragazzo non aveva mai visto una ferrovia e quando, ondeggiando lunghi binari a lui sconosciuti, sentiva il rombo di un treno in arrivo, per la sua immaginazione stremata gli ingranaggi sferraglianti sembravano ripetere incessantemente le terribili parole. Prendi un negro. Era una storia terribile e per tutta la mia infanzia, ogni volta che andavo in treno, ripensavo a quel povero schiavo fuggiasco che scappava dal mostro incalzante. Queste storie, insieme alle vendite di beneficenza e alle raccolte di fondi e sottoscrizioni di cui avevo sentito parlare così tanto, sono sicura che hanno lasciato un'impressione indelebile nella mia mente e nel mio carattere. Esse destarono in me i due tipi di sensazione a cui ho più prontamente reagito per tutta la vita. Primo, l'ammirazione per quello spirito di sacrificio combattivo ed eroico, il solo in grado di salvare l'anima della civilizzazione. E poi il rispetto per lo spirito nobile mosso a riparare e cancellare le devastazioni della guerra. Non riesco a ricordare l'epoca in cui non sapevo leggere, né un'occasione in cui la lettura non fosse un piacere o un conforto. Per quanto indietro vada con la memoria, trovo l'amore per le storie, soprattutto quelle con un protagonista romantico e idealista. Il pellegrinaggio del cristiano fu uno dei primi amori, così come un altro romanzo visionario di Bunyan, che non sembra essere molto conosciuto, La guerra santa. A 9 anni scoprì l'Odissea e molto presto un altro classico, che per tutta la vita mi è stato di ispirazione. Era la Rivoluzione francese di Carlyle e io la corsi con la stessa emozione provata da Keats quando lesse la traduzione di Omero fatta da Chapman. Simile a uno che nei cieli scruta quando un nuovo pianeta nuota sotto il suo sguardo. Non ho mai perso quella prima impressione ed essa ha inciso in modo profondo sul mio atteggiamento verso ciò che stava accadendo intorno alla mia infanzia. Manchester è una città che ha assistito a un gran numero di episodi burrascosi, specialmente di carattere politico. In generale, i suoi cittadini sono sempre stati di opinione liberali, difensori della libertà di pensiero e di espressione. Ma alla fine degli anni 60, ecco che a Manchester si verificò uno di quei terribili avvenimenti che sono l'eccezione alla regola. Il tutto accadde in occasione della rivolta feniana in Irlanda. Ci fu un'insurrezione dei feniani e la polizia arrestò i loro capi. Questi uomini stavano venendo portati in carcere in un furgone della polizia. Lungo la strada, il furgone fu bloccato e assalito nel tentativo di liberare i prigionieri. Un uomo sparò un colpo di pistola, cercando di rompere il lucchetto della portiera del furgone. Un poliziotto cadde, ferito a morte, e alcuni uomini furono arrestati e accusati di omicidio. Ricordo perfettamente la rivolta, a cui non ho assistito, ma di cui ho ascoltato il vivido racconto fattomi da mio fratello maggiore. Avevo passato il pomeriggio con un amichetto e mio fratello era venuto dopo il tè per accompagnarmi a casa. Mentre camminavamo in un crescente crepuscolo novembrino, lui mi raccontò tutto eccitato della rivolta, del fatale colpo di pistola e del poliziotto assassinato. Riuscivo quasi a vedere l'uomo sanguinante sul terreno, mentre la folla ondeggiava e gemeva intorno a lui. Il resto della storia mostra uno di quegli agghiaccianti errori che non di rado compie la giustizia. Anche se la sparatoria venne fatta, senza alcun intento di uccidere, gli uomini furono processati per omicidio e tre di loro, ritenuti colpevoli, vennero impiccati. La loro esecuzione, che eccitò fortemente i cittadini di Manchester, fu una delle ultime, se non l'ultima esecuzione pubblica autorizzata in città. A quel tempo ero una collegiale in una scuola vicino Manchester e trascorrevo i fine settimana a casa. Un sabato pomeriggio, in particolare, spicca nella mia memoria, perché lungo la strada da scuola a casa passai davanti alla prigione dove sapevo che erano stati rinchiusi con gli uomini. Vidi che una parte del muro della prigione era stata buttata giù e che nell'ampia apertura rimasta c'erano le tracce di una forca rimossa da poco. Rimasi pietrificata dall'orrore e fui attraversata dall'improvvisa certezza che in quell'impiccagione era uno sbaglio, peggio, un crimine. Fu la mia presa di coscienza di uno dei più terribili fatti della vita, che la giustizia e il giudizio spesso vivono in mondi separati. Racconto questo episodio degli anni della mia crescita per mostrare come spesso le impressioni dell'infanzia hanno a che vedere con il carattere e la condotta futura più di quanto non ne abbiano l'eredità o l'educazione. Ne parlo anche per mostrare che la mia evoluzione in una sostenitrice della militanza politica fu in gran parte un processo empatico. Non ho sofferto personalmente le privazioni, l'amarezza e il dolore che portano così tanti uomini e donne a prendere consapevolezza dell'ingiustizia sociale. La mia infanzia fu protetta dall'amore e da una casa confortevole, eppure, quando ero ancora una bambina molto piccola, iniziai istintivamente a sentire che c'era qualcosa che non andava, persino nella mia stessa casa. Una specie di falsa idea delle relazioni familiari, un ideale incompleto. Questo mio vago sentire cominciò a consolidarsi in certezza più o meno quando io e i miei fratelli fummo mandati a scuola. L'educazione del ragazzo inglese, allora come oggi, era considerata una faccenda molto più seria dell'educazione della sorella del ragazzo inglese. I miei genitori, soprattutto mio padre, avevano discusso la faccenda dell'istruzione dei miei fratelli come un fatto di effettiva importanza. Dell'educazione mia e di mia sorella se ne parlò a malapena. Naturalmente andammo a una scuola femminile, scrupolosamente selezionata, Ma al di là del fatto che la direttrice fosse una gentildonna e che tutte le alunne fossero ragazze della mia stessa classe sociale, nessuno sembrò preoccuparsi d'altro. L'educazione di una ragazza a quel tempo sembrava avere come suo unico obiettivo l'arte di far bella la casa, presumibilmente per i girovaghi parenti di sesso maschile. Io mi scervellavo nel capire perché dovessi sottostare a un compito così specifico, far bella la casa per i miei fratelli. Tra di loro c'era un bellissimo rapporto di amicizia, ma loro non fu mai indicato come compito quello di far bella la casa per me. Perché no? Nessuno sembrava saperlo. La risposta a queste enigmatiche domande mi arrivò inaspettatamente una notte, mentre me ne stavo stesa sul letto aspettando di lasciarmi vincere dal sonno. Mio padre e mia madre avevano l'abitudine di fare il giro dei nostri letti prima di andare a dormire a loro stessi. Quando entrarono nella mia stanza, quella sera io ero ancora sveglia, ma per una qualche ragione feci finta di sonnecchiare. Mio padre si piegò su di me, facendo scudo alla fiamma della candela con la sua grande mano. Non potevo sapere esattamente che pensiero gli stesse passando per la testa mentre fissava lo sguardo giù verso di me, ma lo sentì dire, piuttosto mestamente: "Che peccato che non sia un ragazzo." Il mio primo, accalorato impulso fu di balzare a sedere sul letto e dichiarare che non volevo affatto essere un maschio, ma rimasi immobile e sentii i passi dei miei genitori dirigersi verso il letto del figlio successivo. Ripensai al commento di mio padre per molti giorni a seguire, ma penso che non decisi mai di compiangermi per il mio sesso. Comunque, venne fuori in modo molto chiaro che gli uomini consideravano se stessi superiori alle donne e che le donne, apparentemente, si adeguavano a quella convenzione. Trovai difficile conciliare questa visione delle cose con il fatto che sia mia madre sia mio padre fossero sostenitori del pari diritto di voto. Ero molto giovane quando passò il Reform Act del 1866, ma ricordo molto bene la confusione provocata da alcune circostanze che l'accompagnarono. Questo Reform Act, noto come Household Franchise Bill, segnò la prima estensione popolare del voto in Inghilterra dal 1832. Secondo le sue disposizioni, i possessori di beni immobili che pagavano un minimo di 10 sterline di imposta all'anno avrebbero avuto diritto a eleggere i membri del Parlamento. Mentre se ne stava ancora discutendo nella Camera dei Comuni, John Stuart Mill propose un emendamento al progetto di legge per includere, oltre che gli uomini, anche le donne proprietarie di beni immobili. L'emendamento fu rigettato, ma nella legge che ne risultò veniva usato il termine uomo anziché il solito persona di sesso maschile. Ora, in base a un'altra legge del Parlamento, era stato deciso che la parola uomo includesse sempre anche la parola donna, a meno che non fosse diversamente specificato. Ad esempio, in alcune leggi che contenevano delle clausole relative al pagamento delle tasse, erano usati in ogni parte il nome e il pronome maschile, ma le disposizioni si applicavano anche ai contribuenti di sesso femminile. Così, quando il Reform Bill, con la parola uomo, al suo interno diventa legge, molte donne credettero che fosse stato effettivamente conferito loro il diritto di voto. Ne derivò un'enorme quantità di discussioni e alla fine la questione venne messa alla prova da un gran numero di donne che cercava di far sì che i propri nomi fossero iscritti nelle liste elettorali. A Manchester, la mia città, 3.924 donne su un totale di 4.215 possibili elettrici reclamò i propri voti. E la loro richiesta fu difesa nei tribunali da eminenti avvocati, incluso il mio futuro marito, il dottor Pankhurst. Naturalmente la richiesta delle donne fu respinta, ma quel fermento non fece che rafforzare il movimento per il diritto di voto delle donne in tutto il paese. Ero troppo giovane per capire la precisa natura della vicenda, ma presi parte all'eccitazione generale. A forza di leggere giornali ad alta voce per mio padre, avevo sviluppato un genuino interesse per la politica e il Reform Bill si presentava alla mia giovane intelligenza come qualcosa che avrebbe portato il miglior bene possibile al paese. Naturalmente, la prima elezione dopo il progetto di legge fu un'occasione memorabile. E fu memorabile soprattutto per me, perché era la prima a cui avrei preso parte. A me e mia sorella Erano appena stati regalati dei nuovi vestiti invernali di colore verde e fatti allo stesso modo, secondo il costume delle famiglie per bene inglesi. All'epoca ogni ragazzina indossava una sottoveste di flanella rossa e quando mettemmo per la prima volta i nostri abiti nuovi, fui colpita dal fatto che eravamo vestite di rosso e verde, i colori del Partito Liberale. Visto che nostro padre era un liberale, per forza di cose il Partito Liberale avrebbe dovuto vincere le elezioni e io avevo elaborato una brillante strategia per aiutarlo nel suo successo. Con la mia sorellina che trotterellava dietro di me, percorsi più di 1 chilometro verso la cabina elettorale più vicina. Venne fuori che si trovava in una zona industriale piuttosto turbolenta, ma non ci prestammo molta attenzione. Arrivate là, noi due ragazzine sollevammo le gonne verdi per mostrare le sottovesti scarlatte e, traboccanti di orgoglio, camminammo su e giù di fronte alla folla assiepata per incoraggiare il voto liberale. Fummo presto scacciate dal nostro piedistallo e portate via dall'autorità offesa, incarnata da una bambinaia. Credo che venimmo spedite direttamente a letto per di più, ma non ho ricordi molto chiari su questo punto. Avevo 14 anni quando andai alla mia prima assemblea per il diritto di voto. Un giorno, mentre tornavo da scuola, incontrai mia madre che si stava avviando per andare alla riunione e la pregai di portarmi con sé. Lei acconsentì e senza neanche fermarmi per posare i libri, scorazzai via sulla scia di mia madre. I discorsi mi interessarono e mi entusiasmarono in particolare quello della grande Lydia Baker, la Susan B. Anthony del movimento inglese, personaggio splendido e oratore davvero eloquente. Lei era la segretaria del comitato di Manchester e aveva già iniziato ad ammirarla come direttrice del Women's Suffrage Journal, che arrivava a mia madre ogni settimana. A incontro finito, ero una consapevole e conclamata suffragista. Penso di essere sempre stata inconsapevolmente una suffragetta. Con il mio temperamento e con l'ambiente che mi circondava, difficilmente avrei potuto essere altro. Il movimento era molto vivo nei primi anni 70. Da nessuna parte, più che a Manchester, dove era organizzato da un gruppo di uomini e donne straordinari. Tra loro c'erano Jacob Bright e sua moglie, che erano sempre pronti a sostenere la causa in difficoltà. Jacob Bright, fratello di John Bright, fu per molti anni membro del Parlamento di Manchester e fino al giorno della sua morte fu un attivo sostenitore del suffragio femminile. Due donne particolarmente dotate, oltre alla signorina Baker, facevano poi parte del comitato. Erano la signora Alice Cliff Schechter e la signorina Wolstenholme, ora la venerabile signora Wolstenholme Elmy. Uno dei fondatori principali del comitato era l'uomo di cui, negli anni successivi, ero destinata a diventare moglie, il dottor Richard Marsden Pankhurst. A 15 anni andai a Parigi, dove fui ammessa come alunna in una delle pionieristiche istituzioni europee per l'educazione superiore delle ragazze. Questa scuola, una delle fondatrici era la moglie di Edmond Adam, che era ed è tuttora un'illustre figura del mondo letterario. Si trovava in un'antica ed elegante dimora, in Avenue de Neuilly. Era diretta dalla signorina Marquef Girard, una donna di raffinata educazione, che poi fu nominata ispettore scolastico governativo in Francia. La signorina Marquef Girard pensava che l'istruzione delle ragazze dovesse essere altrettanto accurata e anche più funzionale di quella che ricevevano a quei tempi i ragazzi. Lei includeva nei suoi corsi la chimica e altre scienze e insegnava alle sue ragazze la contabilità oltre al ricamo. In questa scuola dominavano numerose altre idee all'avanguardia e la formazione morale che ricevevano le studentesse era, a mio avviso, tanto valida quanto quella intellettuale. La signorina Marquef Girard riteneva che quelle donne dovessero poter raggiungere i più alti gradi della virtù. Le sue alunne erano tenute a rispettare i più rigidi principi della sincerità e onestà. Io stessa potei godere della mia comprensione e del beneficio di un'implicita fiducia che sono sicura non avrei potuto tradire, anche se avessi provato per lei un affetto meno autentico. La mia compagna di stanza, in quell'incantevole scuola, era un'interessante giovane ragazza della mia stessa età, Noemi Rockford, figlia di quel grande repubblicano, comunista, giornalista e spadaccino, Harry Rockford. Questo accadeva poco dopo la guerra franco-prussiana e i ricordi della caduta dell'impero e della sanguinosa e fallimentare Comune erano ancora molto sentiti a Parigi. Infatti, l'illustre padre della mia compagna e molti altri si trovavano allora in esilio in Nuova Caledonia per aver preso parte alla Comune. La mia amica Noè era lacerata dalla preoccupazione per suo padre. Parlava di lui costantemente. Ed erano molti raccapriccianti racconti di coraggio e patriottismo a cui prestai orecchio. Henri Rochefort era in realtà uno degli spiriti guida del movimento repubblicano in Francia e dopo la sua incredibile fuga dalla Nuova Caledonia su una barca, trascorse molti anni di avventure politiche delle più vivaci e pittoresche. Io e sua figlia rimanemmo care amiche per molto tempo, dopo che terminammo i nostri studi, e il mio legame con lei rafforzò tutte le idee liberali che avevo acquisito in precedenza. Avevo tra i 18 e i 19 anni, quando infine tornai dalla mia scuola parigina e presi il mio posto a casa di mio padre come una giovane donna adulta. Simpatizzai con e lavorai per il movimento a favore del voto delle donne e arrivai a conoscere il dottor Pankhurst, il cui impegno per il suffragismo femminile non era mai venuto meno. Era stato il dottor Pankhurst a stendere il primo progetto di legge per la concessione del voto, conosciuto come Women's Disabilities Removal Bill, e presentato alla Camera dei Comuni nel 1870 da Jacob Bright. Il progetto di legge passò in seconda lettura con una prevalenza di 33 voti, ma fu bloccato in commissione dagli ordini perentori del signor Gladstone. Il dottor Pankhurst, come ho già detto, insieme a un altro eminente avvocato, Lord Coleridge, aveva fatto da legale per le donne di Manchester, che nel 1868 avevano provato ad essere iscritte nelle liste elettorali. Aveva inoltre disegnato il progetto di legge che dava alle donne sposate un controllo assoluto sulle proprie proprietà e sui propri introiti, un progetto che divenne legge nel 1882. Il mio matrimonio con il dottor Pankhurst avvenne nel 1879. Penso che non saremo mai troppo grate al gruppo di uomini e donne che, come il dottor Pankhurst, in quei primi giorni offrirono il peso dei loro onorabili nomi al movimento suffragista nelle difficoltà della sua tormentata giovinezza. Questi uomini non aspettarono che il movimento divenisse popolare, né attesero che le donne si spingessero fino al punto della rivolta. Lavorarono per tutta la vita a fianco di coloro che stavano organizzando, educando e preparando quella rivolta che sarebbe arrivata soltanto in futuro. Ovviamente questi pionieri persero di popolarità per le loro opinioni femministe. Alcuni di loro ne risentirono dal punto di vista finanziario, altri politico, eppure non vacillarono mai. La mia vita matrimoniale durò 19 anni felici. Ho sentito spesso la battuta per cui le suffragette sarebbero donne che non sono riuscite a trovare alcun sfogo naturale per le proprie emozioni e sono perciò creature acide e frustrate. Questo probabilmente non vale per ogni suffragista e di sicuro non vale per me. La mia vita familiare e le mie relazioni sono state ideali, per quanto possibile, in questo mondo imperfetto. Circa un anno dopo il mio matrimonio nacque mia figlia Christabel e nel giro di 18 mesi arrivò la mia secondogenita Silvia. Seguirono altri due bambini e per alcuni anni fui immersa piuttosto profondamente nelle mie faccende domestiche. Comunque, non sono mai stata così assorbita dalla casa e dai bambini da perdere l'interesse nelle questioni della comunità. Il dottor Pankhurst non desiderava che mi trasformassi in una macchina domestica. Era fermamente convinto che la società, tanto quanto la famiglia, avesse bisogno dei servigi delle donne. Così, mentre i miei bambini erano ancora nelle loro culle, io prestavo servizio nel comitato esecutivo delle Women's Suffrage Society e anche nel consiglio d'amministrazione del comitato che stava lavorando per assicurarsi il Married Women's Property Act. Una volta approvata la legge nel 1882, mi gettai nell'impegno per il suffragio con rinnovata energia. Si stava discutendo un nuovo Reform Act, conosciuto come County Franchise Bill, che estendeva il suffragio agli agricoltori e credevamo che i nostri anni di propaganda informativa avessero preparato il Paese a sostenerci nella richiesta di un emendamento al progetto di legge in favore del suffragio femminile. Per diversi anni avevamo tenuto degli incontri davvero magnifici nelle città di tutto il regno. Le folle, l'entusiasmo, la generosa risposta agli appelli per un sostegno, tutto questo sembrava giustificare la convinzione che il suffragio femminile fosse vicino. In realtà, nel 1884, quando il County Franchise Bill fece la sua apparizione, avevamo un'effettiva maggioranza a favore della Camera dei Comuni. Ma una maggioranza favorevole alla Camera dei Comuni in nessun modo garantisce il successo di un provvedimento. Lo spiegherò nel dettaglio quando arriverò a parlare del nostro lavoro di opposizione ai candidati, che si erano espressamente dichiarati a favore del suffragio, una tendenza che ha ampiamente sconcertato i nostri amici americani. Il Partito Liberale era al potere nel 1884 e venne mandato un lungo memoriale al primo ministro, il Right Honorable Williams E. Gladstone, chiedendo che fosse presentato alla libera e imparziale attenzione della Camera un emendamento al County Franchise Bill per il suffragio femminile. Il signor Gladstone rifiutò drasticamente, dichiarando che se fosse passato un emendamento per il suffragio femminile, il governo non si sarebbe assunto la responsabilità del progetto di legge. L'emendamento venne presentato comunque, ma Gladstone non permise che venisse discusso liberamente e impose ai membri del Partito Liberale di votare a sfavore. Venne indetta contro di esso quella che chiamiamo una convocazione parlamentare, una nota che praticamente ordinava ai membri del partito di trovarsi a portata di mano a una certa ora per votare contro l'emendamento delle donne. Per nulla scoraggiate, le donne provarono a ottenere che per il proprio voto fosse introdotto un progetto di legge indipendente. Ma il signor Gladstone sistemò le questioni parlamentari in modo tale che il progetto non venne neppure mai discusso. Non scriverò la storia del movimento suffragista femminile in Inghilterra antecedente al 1903, quando venne organizzata la Women's Social and Political Union, l'unione sociale e politica delle donne. Quella storia è piena di repliche e di eventi del tipo che ho appena descritto. Gladstone era un implacabile nemico del suffragio femminile. Era convinto che il lavoro delle donne e la politica fossero al servizio degli uomini. Una delle azioni più scaltre della carriera del signor Gladstone fu l'aver scisso l'organizzazione suffragista in Inghilterra. Vi riuscì, sostituendola con qualcosa di altrettanto buono. E questo qualcosa erano le Women's Liberal Associations, le associazioni delle donne liberali. Nate nel 1881 a Bristol, queste associazioni si diffusero rapidamente in tutto il paese e nel 1887 divennero una federazione, la National Women's Liberal Federation. La promessa della federazione era che alleandosi con gli uomini nei partiti politici, le donne avrebbero presto ottenuto il diritto di voto. La bramosia con cui le donne si bevvero questa promessa, smettendo di lavorare per se stesse e gettandosi al servizio degli uomini, fu sorprendente. La Women's Liberal Federation è un'organizzazione di donne che credono nei principi del Partito Liberale. La più antica Primrose League è un'organizzazione simile di donne che aderiscono ai principi del Partito Conservatore. Nessuna di queste organizzazioni aveva il voto delle donne come proprio obiettivo. Esse vennero al mondo per sostenere i piani del partito e per appoggiare le elezioni dei candidati del partito. Mi è stato detto che in America le donne si sono recentemente alleate con i partiti politici, credendo, proprio come facciamo noi, che un'azione come quella faccia crollare l'opposizione al suffragio, in quanto dimostra agli uomini che le donne posseggono abilità politiche e che la politica è un lavoro adatto alle donne tanto quanto adatto agli uomini. Non fatele illudere. Posso assicurare alle donne americane che la nostra lunga alleanza con i grandi partiti, la nostra devozione ai programmi di partito, il nostro fedele lavoro durante le elezioni, non hanno mai fatto progredire la causa del suffragio di un solo passo. Gli uomini hanno accettato i servigi delle donne, ma non hanno mai offerto loro nulla in cambio. Per quanto mi riguarda, sulla questione, non mi sono mai illusa. Ero presente quando venne al mondo la Women's Liberal Federation. La signora Gladstone presiedeva l'evento, offrendo all'Assemblea molte parole consolatorie per l'assenza del nostro grande capo, il signor Gladstone, che naturalmente non aveva tempo da perdere in un raduno di donne. Su richiesta della moglie di Jacob Bright, mi unì alla federazione. In questa fase della mia crescita ero un membro della Fabian Society e avevo una fede considerevole nei pervasivi poteri del suo temperato socialismo. Ma ero già alquanto convinta dell'inutilità del fidarsi dei partiti politici. Fin da bambina avevo iniziato a meravigliarmi della fede ingenua dei membri del partito nelle promesse dei loro leader. Ricordo bene mio padre che tornava a casa dalle riunioni politiche, il suo volto raggiante, entusiasta. Che è successo, papà? Chiedevo e lui replicava trionfante. Ah, siamo riusciti a far passare la mozione. Così, alla prossima sessione avrete il vostro disegno di legge, preannunciavo io. Non direi, era la solita risposta. Le cose non si muovono sempre così rapidamente, ma siamo riusciti a far passare la mozione. Bene, le suffragiste, quando vennero ammesse alla Women's Liberal Federation, devono essersi sentite come se avessero fatto passare la propria mozione. Si attrezzarono per lavorare per il partito e per dimostrare che erano idonee al voto tanto quanto gli agricoltori che vi erano appena stati ammessi. Naturalmente un piccolo nucleo di donne rimase fedele al suffragio. Ripresero col vecchio programma di lavorare per la causa. Nessuna donna chiese a se stessa il come e il perché gli agricoltori avessero ottenuto il diritto di voto. Loro l'avevano ottenuto ed era un dato di fatto, bruciando covoni, insorgendo e dimostrando la propria forza nel solo modo che i politici inglesi erano in grado di comprendere. La minaccia di una marcia di 100.000 uomini verso la Camera dei Comuni, se la legge non fosse stata approvata, giocò il suo ruolo anche nell'assicurare al lavoratore dei campi la sua libertà politica. Ma nessuna suffragista donna lo notò. Per quel che mi riguarda, ero troppo giovane dal punto di vista politico per imparare la lezione allora. Dovevo attraversare anni di lavoro pubblico prima di acquisire l'esperienza e la saggezza per sapere come storcere concessioni dal governo inglese. Dovevo ricoprire una carica pubblica, dovevo andare dietro le quinte delle scuole governative, dei ricoveri e di altre istituzioni caritatevoli. Dovevo vedere con i miei stessi occhi la miseria e l'infelicità di un mondo fatto da uomini, prima di arrivare al punto in cui avrei potuto ribellarmi contro di esso con successo. Fu quasi immediatamente dopo il collasso del movimento suffragista nel 1884 che feci l'ingresso in questa nuova fase della mia carriera.